guarda libera, Dio sguardò del lobo a nostra cordera, Dio sguardò del lobo a nostra cordera, riu, riu, ci, un lobo guarda libera, Dio sguardò del lobo del lobo a nostra cordera, Dio sguardò del lobo del lobo a nostra cordera, e il lobo rabbioso la quiso morder, ma Dio poderoso la suppo per prendere, chi sola va a ser che non pugliese pecar, di amore di tale sta vente non pugliera. Riu, riu, ci, un lobo guarda libera, Dio sguardò del lobo del lobo a nostra cordera, Sese gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, a nos redimidos conseja ser chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. Riu, riu, chi, un lago al marinero, Dios guardó del lobo, del lobo, a nuestra cordera, Dios guardó del lobo, del lobo, a nuestra cordera, muchas profecías lo han Dio, Dio, ci, una porta libera, Dio, guardò del lobo.